Terzo anello ad alta voce. Anna Karenina di Lev Tolstoi. I Levin abitavano a Mosca da più di 2 mesi. Era già trascorso da molto il tempo in cui, secondo i più sicuri calcoli delle persone che si intendono di queste cose, Kitty avrebbe dovuto partorire. Ma lei continuava la gravidanza e dal nulla si notava che il momento fosse più vicino adesso di 2 mesi prima. Il dottore, la levatrice, Dolly, la madre e più di tutti Levin, che non poteva pensare senza spavento a quel che si avvicinava, cominciavano a provare impazienza e inquietudine. La sola Kitty si sentiva perfettamente tranquilla e felice. Lei sentiva ora con chiarezza nascere in sé un nuovo sentimento d'amore per il futuro bambino, in parte per lei già presente, e con gioia prestava ascolto a questo sentimento. Adesso il bambino non era più solo una parte di lei, ma talvolta viveva anche d'una vita propria, da lei indipendente. Sovente Kitty provava dolore per questo, ma nello stesso tempo le veniva voglia di ridere per una gioia nuova e strana. Tutti coloro che amava erano con lei e tutti erano così buoni con lei, le dedicavano tante cure, le offrivano d'ogni cosa soltanto il lato piacevole, che se non avesse saputo e sentito che questo doveva presto finire, non avrebbe desiderato vita migliore e più gradevole. L'unica cosa che le sciupava l'incanto di quella vita era il fatto che suo marito non era quale lei lo amava e quale era stato in campagna. Lei amava il tono calmo, affettuoso e ospitale che lui aveva in campagna. In città, invece, sembrava costantemente inquieto e come in guardia, quasi temesse che qualcuno lo offendesse e soprattutto offendesse lei. Laggiù in campagna, evidentemente sentendosi nel proprio ambiente, lui non si affrettava in nessun posto e non rimaneva mai senza un'occupazione. Lì in città aveva continuamente fretta, come se non volesse lasciarsi sfuggire qualcosa, e tuttavia non aveva nulla da fare. E lei provava pena per lui. Agli altri, lo sapeva, Levin non sembrava penoso come a lei. Al contrario, quando in società lo guardava, come accade talvolta di guardare la persona amata, come se fosse un estraneo per comprendere l'impressione che lui produceva sugli altri, vedeva perfino con spavento per la propria gelosia che non solo lui non era penoso, ma era anzi molto attraente con la sua buona educazione, con la sua cortesia timida e un po' fuori moda di fronte alle donne, con la sua figura vigorosa e con il viso, come le sembrava, particolare ed espressivo. Ma lei non lo vedeva dal di fuori, bensì dal di dentro. Vedeva che lui lì non era se stesso, né avrebbe saputo definire altrimenti il suo stato. Talvolta in cuor suo lo rimproverava perché non sapeva vivere in città. Talvolta invece riconosceva che per lui era effettivamente difficile sistemare lì la sua vita in modo da esserne contento. Che cosa doveva fare, infatti? A carte non gli piaceva giocare. Al club non andava. Frequentare i buontemponi come Oblonsky, lei adesso lo sapeva che cosa significasse. Significava bere e dopo aver bevuto andare chissà dove. Non poteva pensare senza orrore dove andavano gli uomini in quei casi. Andare in società, ma lei sapeva che per questo Levin avrebbe dovuto trovare piacere nell'avvicinare donne giovani e non poteva desiderarlo. Rimanere a casa con lei, con la madre e con le sorelle. Kitty sapeva che questo per lui era noioso. Che cosa dunque gli rimaneva da fare? Continuare a scrivere il suo libro? Aveva tentato di farlo e in principio era andato in biblioteca a cercare estratti e informazioni per il suo libro, ma come le aveva detto, meno faceva, meno tempo gli restava. Inoltre si lamentava con lei che ora che parlava di più del proprio libro non vi provava più interesse e tutte le idee su di esso gli si erano confuse. l'unico vantaggio di quella vita cittadina era che lì in città fra loro non accadevano mai litigi. Fosse perché le condizioni della città erano diverse, fosse perché tutte e due erano diventati più prudenti e ragionevoli a questo riguardo, fatto sta che a Mosca non avevano quei litigi dovuti alla gelosia che avevano tanto temuto trasferendosi in città. La vecchia principessa Maria Borisovna, madrina di Kitty, che le aveva sempre voluto molto bene, desiderò vederla assolutamente. Kitty, che per il suo stato non andava in nessun posto, si recò con il padre dalla venerabile vecchia e da lei incontrò Vronsky. Di questo incontro Kitty poté rimproverarsi soltanto che per un istante, quando aveva riconosciuto nel vestito borghese i lineamenti un tempo a lei così noti, le era mancato il respiro, il sangue le era affluito al cuore e un colorito vivace, lo sentiva, le era apparso sul viso. Ma questo durò pochi secondi. Suo padre, che si era messo apposta a parlare forte con Vronsky, non aveva ancora terminato la sua conversazione che lei era già pronta a guardare Vronsky, a parlare con lui se necessario, esattamente come parlava con la principessa Maria Borisovna, e soprattutto in modo che sino all'ultima intonazione e all'ultimo sorriso tutto fosse approvato dal marito, la cui invisibile presenza lei avvertiva su di sé in quel momento. Con lui disse alcune parole, sorrise anche tranquillamente a una sua celia sulle elezioni che lui chiamò il nostro Parlamento. Bisognava sorridere per far vedere che aveva capito la celia, ma subito si voltò verso la principessa Maria Borisovna e non lo guardò nemmeno una volta finché lui non si alzò per salutare. A questo punto volse lo sguardo a lui, ma solo perché non è gentile non guardare una persona che saluta. Fu riconoscente a suo padre perché non le disse nulla dell'incontro con Vronsky, ma dalla sua tenerezza particolare dopo la visita, durante la solita passeggiata, vide che egli era contento di lei. Anche lei era contenta di se stessa. Non si sarebbe mai aspettata di trovare in sé la forza di trattenere chissà dove, nel fondo dell'anima, tutte le memorie del precedente sentimento per Vronsky, e non soltanto di sembrare, ma di essere perfettamente indifferente e tranquilla verso di lui. Levin arrossì molto più di lei quando gli disse che aveva incontrato Vronsky dalla principessa Maria Borisovna. Le fu molto difficile dirglielo, ma ancor più difficile fu continuare a parlare dei particolari dell'incontro, giacché lui non la interrogava, ma semplicemente la guardava accigliato. «Mi dispiace molto che tu non ci fossi», disse Kitty. «Non che tu non fossi nella stanza, non sarei stata così naturale in tua presenza. Adesso arrossisco molto di più, molto, molto di più», disse arrossendo sino alle lacrime. «Ma che tu non potessi vedermi attraverso una fessura della porta». Gli occhi veritieri dissero a Levin che Kitty era contenta di sé. E sebbene lei arrossisse, egli si tranquillizzò subito e si mise a interrogarla, il che era appunto quel che lei voleva. Quando seppe tutto, fino al particolare che soltanto al primo istante lei non aveva potuto non arrossire, ma poi tutto per lei era stato semplice e facile come con il primo venuto, Levin si fece perfettamente allegro e disse che era molto contento di questo e ora non avrebbe più agito in maniera così stupida come alle lezioni, ma si sarebbe sforzato di essere quanto più amichevole possibile con Vronsky la prima volta che l'avesse incontrato. Thank you. Arrivò al club all'ora giusta. Contemporaneamente a lui si avvicinavano invitati e soci. Levin non era stato al club da molto tempo, da quando, terminata l'università, viveva a Mosca e frequentava la società. Ricordava il club, i dettagli esterni della sua organizzazione, ma aveva completamente dimenticato l'impressione che vi provava una volta. Quando però fu entrato nell'ampio cortile a semicerchio e sceso dalla vettura di piazza mise piede sulla scalinata d'ingresso e un portiere con la bandoliera, inchinandosi, aprì davanti a lui senza rumore la porta, quando vide nella portineria le calosce e le pellicce dei soci e udì la misteriosa scampanellata che annunciava il suo arrivo, quando salendo la scalinata coperta da un tappeto vide la statua sul pianerottolo e un altro portiere che lui conosceva ed era invecchiato, il quale dopo aver esaminato l'ospite gli aprì la porta senza fretta ma senza indugio, Levin si sentì ripreso da quell'ambiente e ritrovò le impressioni di una volta, impressioni di riposo, di benessere e di decoro. «Sei appena arrivato?» disse Oblonsky avvicinandosi in fretta a lui. «Salve! Hai bevuto la vodka? Su, andiamo!» Levin andò con lui verso una grande tavola apparecchiata con bottiglie di vodka e diversi antipasti. Sembrava che su due decine di antipasti si potesse scegliere quel che era di proprio gusto, ma Stepan Arkadyc ne richiese uno speciale e uno dei lacchei in livrea che stavano lì in piedi portò subito ciò che era stato richiesto. Bevettero un bicchierino a testa e ritornarono al tavolo. Subito, mentre ancora mangiavano la zuppa di pesce, a Gagin servirono dello champagne ed egli ordinò di versarne nei quattro bicchieri. Levin non rifiutò il vino che gli offrivano e chiese un'altra bottiglia. Era affamato e mangiava e beveva con grande piacere e con ancor maggiore piacere prendeva parte agli allegri e semplici discorsi degli interlocutori. Gagin, abbassata la voce, raccontò una nuova storiella di Pietroburgo e la storiella, benché indecente e stupida, era tanto buffa che Levin scoppiò a ridere così forte che i vicini si voltarono a guardarlo. «Ah, ecco anche loro!» disse Stepan Arkadyc ormai alla fine del pranzo, piegandosi al di là della spalliera della seggiola e tendendo la mano a Vronsky che veniva verso di lui in compagnia di un alto colonnello della guardia. Anche sulla faccia di Vronsky risplendeva la generale bonaria allegria del club. Egli si appoggiò allegramente con il gomito alla spalla di Stepan Arkadyc, sussurrandogli qualcosa e con il medesimo allegro sorriso porse la mano a Levin. «Molto lieto di incontrarvi», disse. «Vi cercai di nuovo alle elezioni, ma mi dissero che eravate già partito». «Sì, sono partito lo stesso giorno». «Si è parlato ora del vostro cavallo, mi congratulo, un buon tempo». «Anche voi avete dei cavalli da corsa?» «No, li aveva mio padre, ma io me ne ricordo e li conosco». «Dove hai pranzato?» domandò Stepan Arkadyc. «Al secondo tavolo, dietro le colonne». «Allora avete finito», disse Stepan Arkadyc alzandosi e sorridendo. «Andiamo». Thank you. Alzatosi da tavola, Levin sentì che nel camminare le braccia gli si muovevano con particolare leggerezza e si avviò con Gagin attraverso le alte stanze verso il biliardo. Passando nel salone si scontrò con il suocero. «Ebbene, ti piace il nostro tempio dell'ozio?» disse il principe prendendolo sotto braccio. «Andiamo a fare un giretto!» «Volevo appunto passeggiare un poco, guardare, mi interessa!» Turovcin era seduto su un divano alto nella stanza del biliardo con un bicchiere e Stepan Arkadyc e Vronsky discorrevano di qualcosa vicino alla porta in un angolo lontano della stanza. «Non che lei si annoi, ma questa situazione indefinita, incerta!» udì Levin e avrebbe voluto allontanarsi in fretta, ma Stepan Arkadyc lo chiamò. «Levin!» disse Stepan Arkadyc. E Levin notò che negli occhi non aveva lacrime, ma un certo umidore, come sempre gli succedeva quando aveva bevuto o quando era commosso. Quel giorno era l'una cosa e l'altra. «Levin, non andartene!» disse, e gli strinse con forza il braccio al gomito, evidentemente non volendo lasciarlo andare a nessun costo. «Questo è un amico mio sincero, forse il migliore!» disse a Vronsky. «Anche tu per me sei ancora più vicino e più caro, e io voglio e so che voi dovete essere amici intimi, perché siete tutte e due delle gran brave persone!» «Ebbene, non ci resta che baciarci!» disse Vronsky benevolmente scherzando e porgendo la mano. Prese rapidamente la mano che gli veniva tesa e la strinse forte. «Sono molto, molto contento!» disse Levin stringendo la mano di Vronsky. «Cameriere, una bottiglia di champagne!» disse Stepan Arkadyc. «Anch'io sono molto contento!» disse Vronsky. Ma nonostante il desiderio di Stepan Arkadyc e il loro comune desiderio, non avevano niente da dirsi e tutte e due lo sentivano. «Sai che lui non conosce Anna?» disse Stepan Arkadyc a Vronsky. «E io voglio assolutamente portarlo da lei! Ci andremo, Levin!» «Davvero?» «Lei sarà molto contenta», disse Vronsky. «Andrei subito a casa», soggiunse, «ma Jasvin mi preoccupa e voglio essere qui finché non avrà finito». Quando finì la partita, Stepan Arkadyc prese Levin sotto braccio. «Su, allora andiamo da Anna, adesso, eh? È a casa. È un pezzo che le ho promesso di portarti. Dove intendevi andare stasera?» «In nessun posto particolarmente. Avevo promesso a Sviaschi di andare alla società d'agricoltura, ma andiamo pure», disse Levin. «Magnificamente, andiamo! Informati se è arrivata la mia carrozza», disse Stepan Arkadyc rivolgendosi a un lacchè. Levin si avvicinò al tavolo, pagò i 40 rubli che aveva perduto sugli assi, pagò le spese del club, misteriosamente note a un vecchio lacchè che stava in piedi vicino alla porta, e, muovendo in modo particolare le braccia, attraversò tutte le sale in direzione dell'uscita. Wish I had a river I could skate away on. But it don't snow here, it stays pretty green. I'm gonna make a lot of money, then I'm gonna quit this crazy scene. I wish I had a river I could skate away on. I wish I had a river so long my feet to fly. Oh, I wish I had a river I could skate away on. I made my baby cry to help me, you know, he put me at ease, and he loved me so not, he made me weak in the knees. I wish I had a river I could skate away on. I'm so hard to handle, I'm selfish and I'm sad, now I got a lost the best baby that I ever had. I wish I had a river I could skate away on. I wish I had a river so long I would teach my feet to fly. Oh, I wish I had a river I could skate away on. I made my baby say goodbye. It's coming on Christmas, they're cutting down trees, they're putting up rain dancing, songs of joy and peace. I wish I had a river I could skate away on. Elsa Galvato ha letto Anna Karenina di Lev Tolstoi. Riduzione del testo di Adelchi Battista. Coordinamento di Fabiana Carobolante. Il terzo anello @chiocciolarai.it